Ciao, io sono Laura Boltolina e questa newsletter è Superpoteri e i pilastri della felicità. Sono stanca del cinismo, dell'apatia, delle pretese, del giudizio, del senso di separazione, di solitudine. Anche tu? C'è un antidoto per questi veleni sfibranti, la sincerità. Secondo le neuroscienze, i pilastri della felicità sono quattro. Indovina? Nessuno di loro riguarda il denaro, il potere inteso come dominio sulle persone o sull'ambiente, o l'accumulo di beni. No, nemmeno vivere in un ciringhito su una spiaggia tropicale. Invece, uno dei pilastri della felicità è avere connessioni umane calde e amorevoli. Anche se ci viene spiegato quotidianamente che siamo in un mondo spietato e vorace, gli esperimenti dimostrano che noi esseri umani, quando siamo veramente noi stessi, siamo autenticamente gentili, empatici, sinceri. Essere sinceri significa esprimere onestamente quello che abbiamo nel cuore. La nostra natura innata, insomma, è amorevole e la sincerità è espressione di quella natura. Per questo è un superpotere. Come ogni superpotere che si rispetti, arriva da dentro e spappola tutto quello che ci impedisce di sentirci felici, cioè cinismo, apatia, pretesa, giudizio e senso di separazione. Quante volte siamo state ferite, feriti, e la ferita è rimarginata più rapidamente grazie a scuse autenticamente sincere. Quante volte un momento di solitudine si è dissolto grazie a un gesto autenticamente gentile. Quante volte la sincera espressione di un artista ci ha emozionate, emozionati. Di questo ho parlato spesso con la mia amica Fedra. Ciao Fedra! Lo strumento più efficace per esplorare la mia natura autentica, il mio scopo nel mondo, i miei sogni più veri, per me è sempre stato lo yoga. Puoi seguire insieme a me il percorso Il fascino degli dèi, 4 incontri yoga e mitologia online, in diretta i giovedì di novembre dalle 19.30 alle 21, oppure attraverso le registrazioni che restano a disposizione per una settimana almeno. Giovedì scorso ci siamo chiesti qual è il mio sogno più grande e quali sono gli ostacoli alla realizzazione di questo sogno. Te l'avevo detto che non è Pollon. Adoro questo commento di una delle partecipanti. Una cosa che ho realizzato in questi giorni è che sì, sono molto stanca, ma non mi sento spenta o esaurita e questo fa una differenza enorme. Mi sento più centrata. Sei ancora in tempo a partecipare. La registrazione della settimana scorsa è ancora recuperabile online. Cosa ci chiederemo questa settimana, sapendo che non è Bollywood? Puoi anche seguire il mio percorso online Yoga del Potere, prendersi il lunedì, per abbracciare il lunedì anziché subirlo. In diretta ogni lunedì dalle 19.30 alle 21 con le registrazioni a disposizione per l'intera settimana. Questo è il bellissimo commento di una partecipante. Questo percorso è stato, è e sarà un faro nella notte. Una luce che mi ha guidato quando gli elementi per orientarmi non sapevo dove fossero finiti. Oggi per me questo percorso è un appuntamento fisso. Non mi importa se lunedì mattina alzarsi è difficile, perché so che qualunque cosa accadrà durante la giornata, alla sera avrò l'opportunità di ricentrarmi in un cerchio magico di energie positive e con persone speciali. E la settimana proseguirà in discesa. Vuoi provare una lezione aperta online di Yoga del Potere? Segnati la data, martedì 6 dicembre, 19.30-20.30. Questa lezione viene organizzata insieme a Roberta di Woman and the City, cercala su Instagram, e non sarà destinata soltanto alle persone iscritte a questa newsletter. Tieni conto che, come sempre, il numero dei posti disponibili è limitato. Per partecipare, segna la data in agenda, fai un nodo al fazzoletto, metti un promemoria sul cellulare, chiedi alla tua migliore amica di ricordartelo, insomma, fai quello che devi per tenerlo a mente. Rispondimi a questa mail così ti inserisco nell'elenco delle persone che riceveranno il link. seguimi sui social, che lì te lo ricordo anch'io. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Brené Brown, dal suo Atlas of the Heart, Atlante del cuore. Il vero senso di appartenenza non richiede che tu cambi quel che sei, anzi, ti chiede di essere esattamente chi sei. Un grande abbraccio, Laura. Thank you.